Pane, burro e rock and roll, sono le 8. Seconda ora. Pane, burro e rock and roll. Siamo giocata la prima così, pippacchiata via. La tua colazione rock. Lunedì 17 marzo. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock. L'anno, come ovvio che sia, è il 2008, l'anno della svolta. Benvenuti e benvenute anche ai nuovi arrivati. Puntata 205, bella ricca. 3351007777, il numero di SMS, e Ariel @ radiorockfm.com, la nostra mail. Ciao dall'Ariele, trombetta, la squadra, PBR, Fericantoni, tutti belli caldi quest'oggi. E un sacco di contatti. Volevo girare la segnalazione di questo chimico, Ivano da Secugnago, che si chiede tra sé e sé se ci sono altri chimici all'ascolto. Mi piaceva come domanda, quindi vediamo se... Saluti anche a Marzia, a Dave. Questo è che da una settimana non ci sentiva. Siete in costante peggioramento psicocelebrare. Mamma mia. Mary da Firenze, Duccio anche lui da Firenze. Salutiamo il pinguino di Sesto Fiorentino. Abbiamo Patrick, patentato 169, che richiede anche strombazzata. Dove è trombetta? Quello qui. Insomma, seconda ora bella ricca anche quest'oggi. Iniziamo al massimo, mentre proseguo salutando, così mi porto avanti. L'amico a quale piace il nostro jingle anti-alcolismo. Jim dalla Versilia, Monica, Danilo da Genova, ciao Bea. Aerosmith, James Garrigan. Ciao Cristian Edicolante di Cologno. Pesto duro alla rinfusa. Oh, Jenny già pistola. La. The light. E nonostante lunedì, e nonostante il numero 17, trickete, trackete, noi di Pane, Burro e Rock and Roll vi salutiamo con affetto e con calore. Bravo, maestro. Amici, amiche, sì, che ci ascoltate là fuori, vi stringiamo in un abbraccio affettuoso. Esatto, ce la faremo! Sì, un abbraccio ecumenico, vi vogliamo bene, ci riusciremo. Quanto buon umore dalle frequenze di Rock FM. La sfangheremo anche oggi perché abbiamo per le mani la rubrica dei maestro, nati. Maestro, quando arrossisce così tanto un filo di preoccupazione cresce sempre. Andiamo con i compleanni. Ha ragione. I compleanni. Il 17 di marzo del 1938 nasceva il mitico Rudolf Kametovic Nureyev. Ah, come gliel'ho detto? Bene, molto bene, bene. Guardi, io mi sarei inciampato sicuramente su un paio di dieresi. Il mitico ballerino russo che ha portato il balletto classico nel mondo, il grandissimo danzatore, l'ineffabile Nureyev, punto di riferimento di Roberto Fricantoni. Esatto, quando la mattina l'alto fa le spaccate. Esatto, quando la mattina faccio i miei soliti numerosi tonificanti plié. I plié. Plié, esatto. Plié. Ed esercizi tonificanti. Esatto. Va anche bene. Se la mia religione, lei sa che me lo vieterebbe. Lo sapevamo. 17 di marzo del 1939, invece, nasceva Giovanni Trapattoni, ex calciatore e allenatore di calcio italiano. Chissà quanti ricordi legati figurina a Trapattoni. Figurina difficile. In che senso? Dottor Ariel. Io non trovavo mai Trapattoni nelle famose compilation, potremmo dire oggi, di figurine. Benvenuto nel 2008, signor Antonio. Le sticker, si intende, le figurine, sì, proprio, sì, vere. Le figurine, quelle che della si Panini attaccavano, sì, esatto, sì, sì, sì, sì, si incollavano sugli album. Lei dice che Trapattoni se lo ricorda come un mancante. Come, sì, come uno dei rari, insomma, l'ineffabile Trapattoni. 17 di marzo del 51 nasceva invece Kurt Russell, l'attore statunitense. Me lo ricordo, quello di Jena Plinsky, quello di Fuga da New York. Esatto, proprio lui. Quello di Tango e Cash. Proprio lui, il buon Kurt Russell. E chiudiamo con gli auguri a Billy Corgan, ovviamente degli Smashing Pumpkins, che nasceva quest'oggi nel 1967. Il 17 marzo, evviva il 17, evviva marzo, evviva noi. E evviva lunedì? Evviva voi, evviva lunedì! Bravo, evviva. Evviva tutto. auguroni da Pane, Burro e Rock and Roll a Billy Corgan. Tonight. Smashing Pumpkins di Tonight. 8 e 13 minuti primi, questa è la colazione servita in diretta e risponde al nome di Pane, Burro e Rock and Roll. Avrei da affrontare un'altra telefonata che come al solito affronterò in maniera strana, nel senso che volevo mandare in onda uno dei primi inviati di Pane, Burro e Rock and Roll, Andrea 147, invece c'è Rosy, anche lei una della prima guardia. Ciao Rosy. Ciao a tutti. Dopo ti spiego perché. Cioè, tu fai le veci di Andrea 147, più o meno, in qualità entrambi di inviati della prima ora, vi metto come se stessi parlando alla stessa persona. Va bene. Può funzionare? Medio. Va bene. Medio. In realtà, Rosy la ricorderete per meravigliose descrizioni di calendari con gli uomini nudi, ma soprattutto per colei che tenta di infiltrare un po' di sport in questa trasmissione radiofonica che, come ha ricordato Roberto Fricantoni, ha come fede la impossibilità di occuparsi di sport. Però se voi lo conoscete, fate voi, noi siamo precisi. Giusto? Il rugby è uno sport di nicchia, quindi ci va bene. Va benissimo. L'abbiamo svoltata. Abbiamo vinto 23-20 contro la Scozia, gli abbiamo lasciato il cucchiaio di legno. Ufficiale? Ufficiale. Tra l'altro eravamo... Scozia messi bene in teoria, no? Cioè, è gente cresciuta a pane e rugby. Loro sì, sono cresciuti a pane e rugby. Non come i nostri che sono cresciuti a pizza e calcio. No, poi quest'anno l'Italia era Italia, non avevano equiparati... Gli equiparati sono i giocatori stranieri che giocano al campionato italiano. Però non c'era bisogno che me lo spiegavi, lo sapevi? No, va bene. No, non da è vero. 5 anni che si sono ammogliati in Italia. Io mi offro alla federazione se vuole portare qualcuno. Io sono anche per la poligamia, non è che non faccio problemi. Molto bello questo appello. Guarda, non ci scherzare, potremmo chiamare la federazione ufficialmente e dire: salve, c'è una nostra radioascoltatrice interessata. Ma l'ho già anche detto, quindi a uno che ci lavora. Ok, bene. No, io volevo darti una bella notizia, sai che non avevo mai visto una partita di rugby. L'hai vista? Allora, l'ho vista, ho visto gli ultimissimi minuti, però in una condizione molto particolare, perché ero in Piazza Duomo a Palazzo Reale a vedere una mostra meravigliosa di Bacon, all'uscita c'era il megaschermo in Duomo, sì. E ho visto proprio il calcio finale lì, cioè, hai visto il drop, ce la possiamo fare, siamo 20-20, dai che gli affamo, pum pum pugni calcio, meno male perché ne ha sbagliati una caterva quel ragazzo lì durante il campionato, e invece ce l'ha fatta alla fine, questo ce l'ha fatta, meno male. Ti confesso che il mio cuore antisportivo per un attimo ha fatto quei, ha pulsato un po', cioè ho sentito quella cosa che dici, no figo, abbiamo vinto. Io ho fatto fuori 2 birre e 4 pacchi di patatine, fai te. Va bene, quindi ci tenevo a dirti che avevo visto comunque un pezzettino finale della partita ed ero contento, perché sentivo poi nel weekend commenti, dicevano: ma allora questo cucchiaio di legno lo teniamo o no? O no ufficiale? È loro. Secondo me è loro. No, secondo me o manca ancora qualcosa? Io non ho controllato perché stamattina non ho ancora guardato in internet, ma loro le hanno perse tutte, okay. Noi ne abbiamo vinta una, devono solo stare zitti e tenerselo. Anche perché noi abbiamo perso 16-14 l'ultima volta contro la Scozia, stavolta gli abbiamo dato quel punticino in più, invece di 2 gliene abbiamo dati 3. E ci siamo sciacquati la bocca, va bene. Passo invece all'altro problema, sì. Per cui ti trasformi in Andrea 147, quello che ascoltava le radio concorrenti, perché mi segnalano... Televisione, Tele Lombardia, gira uno spot anti-rock. Allora, mi descrivono gente che suona Smoke on the Water e vengono cancellati a favore del ballo liscio. Allora, io volevo chiedere ad Andrea cosa facciamo. Secondo me lo chiedo a te, tanto è uguale. Se vuoi Tele Lombardia se la guarda mia nonna in casa, riposo tutto il giorno. Allora, lancio l'appello, Andrea 147, se ci sei dovresti guardarti tutto il giorno Tele Lombardia. Vedere questo spot e prendere una decisione. Mamma mia. Però potremmo fare un controspot per Tele Lombardia, volentieri. Va benissimo. Tanto qua ce la pigliamo con tutti, non vedo perché con la televisione, no. Poi con Tele Lombardia, quindi. Va bene. Vi faremo sapere. Ciao Rosy, ciao, grazie ciao. Mille. Il rugby a Pane, Burro e Rock and Roll è offerto da Rosy. 335-100-7777, potete inviare il vostro commento. A quale gruppo d'ascolto appartenete? Siete rocker o vi piace il liscio? What these images mean, locked inside me, can't set the rainbows free, like perishing flowers, they sag and twist inside. There's a revolution. Revolution, i cult continuano i contatti al nostro numero di SMS. Una piccola segnalazione all'amico chimico che diceva sarò il solo, ce n'è altri, ce n'è un botto di chimici all'ascolto, tra gli altri Rocca Bestia da Campi Bisenzio, commerciale di professione, chimico di cuore. C'era una chimica, eccola qua, scienziata pazza anch'io, per questo ascolto Rock FM, l'aria arida Cormanno e invece un altro che diceva ciao, io sono Andrea, non sono chimico ma c'ho la fame chimica, può andar bene lo stesso? Medio. Mentre è scattata la querelle per quanto riguarda il cucchiaio di legno, che fanno notare che anche la Scozia ha vinto una partita, quindi sembra, ha vinto con l'Inghilterra, quindi sembra che non lo piglia nessuno al cucchiaio. Approfondiremo l'argomento e vi faremo sapere, perché non si può vivere, vi capiamo, senza sapere se questo cucchiaio di legno lo pigliano oppure no. Un saluto e strombazzata anche a Roberta, nel traffico alle prese con un navigatore folle. Perché quando redazione, freak? Cioè, perché in giornate come questa avrei 80.000 telefonate da fare e poi non c'è mai tempo, mannaggia. Perché oggi dobbiamo fare anche la premiata rubrica Occhio alla spesa. Bisogna iniziarla quella rubrica, eh? E mi sono giunte voci che da quando l'abbiamo detto in televisione fanno un programma che si chiama Occhio alla Spesa. Ma... Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning. Praise for them springing fresh from the wood. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Italians do it better. Yes, Italian pride. Gli italiani lo fanno meglio. Confessava Madonna qualche anno fa e c'entra qualcosa con il test attitudinale di quest'oggi. Esatto, orgoglio italiano. Ma sì, mettiamola così. Molti degli artisti internazionali di musica rock hanno cognomi che potrebbero far pensare a un'origine dichiaratamente italiana. Certo, Zappa Frank. Siciliano. Peraltro. Sinatra Frank, per restare sui Frank. Frusciante John. Anche, esattamente. E forse anche lui, Thomas Baptist Morello, meglio conosciuto come Tom Morello, chitarrista statunitense, noto per aver militato negli Audioslave e prima ancora e tutt'oggi nei Rage Against the Machine. Ma con un cognome così, Tom Morello avrà delle origini italiane oppure no? Ipotesi A. Il suo bisnonno era di origini toscane. Oppure ipotesi B. Suo nonno era calabrese. O infine ipotesi C. Tom Morello smentisce qualsiasi possibile legame con l'Italia nel suo albero genealogico. Ce lo dica subito, Morello ha origini italiane oppure no? Ipotesi A, B o C. La risposta poco dopo e c'è la soluzione esatta tra poco. Non resisto.